Devo chiudere segnalando solo il sondaggio di oggi. Parliamo un po' di calcio. Ieri sono stati anche diramati i calendari della nuova stagione calcistica. Vi chiediamo, visto che la RAI ha deciso di bandire la moviola, dall'anno prossimo basta moviola, torniamo al calcio giocato, basta risse verbali in TV, siete d'accordo con questa decisione? Ne parleremo alle 8.30, votate su radio24.it e ora il GR. Sono le 8.16 minuti e allora, visto che abbiamo sentito Strada in Diretta, sarete tutti al volante, oggi la nostra Deborah Rosciani ci illuminerà. Soldi e dintorni. È così, vero? Immenso. Beh, adesso non esagerare. Ma magari in realtà qualcuna di queste norme che entrano in vigore con il codice della strada faranno anche un po' arrabbiare alcuni automobilisti. Soprattutto faranno. Ci mancherebbe. Massimo rispetto soprattutto per chi guida mezzi pesanti, per chi lavora, e ovviamente quando arrivano queste novità guardano sempre con grande attenzione che impatto avranno sulla propria attività. Allora, buongiorno agli ascoltatori di Soldi e Dintorni. Il Senato, stamattina ne abbiamo dato ampio risalto nel nostro giornale radio da ieri, lo facciamo da giorni per la verità. Oggi il Sole 24 Ore pubblica tra i documenti di norme e tributi proprio tutto il testo della riforma del codice della strada che è stato approvato ieri dal Senato in via definitiva, e siamo proprio alla vigilia dell'avvio del grande esodo estivo, quindi una coincidenza assolutamente molto importante, anche se bisogna aspettare la pubblicazione in Gazzetta di tutte le nuove norme. Però proprio per informare sulle novità in arrivo i milioni di automobilisti che si accingono a partire per le vacanze, abbiamo deciso di tornare su questo tema con questo approfondimento del mattino. Ne abbiamo parlato anche a Salva Danaio la scorsa settimana. Ricordo anche che oltre a quello che pubblica oggi il Sole 24 Ore sta preparando la nuova guida pratica che sarà in edicola con il Sole lunedì prossimo. Noi stamattina invece, per rifare un po' il punto della situazione di tutte le novità, soprattutto le più importanti ovviamente perché le novità sono tante, non riusciremo sicuramente a ricordarle tutte, abbiamo richiamato il nostro collega del Sole 24 Ore, Maurizio Caprino, esperto di queste tematiche. Maurizio, buongiorno, bentornato a Soldi e Dintorni. Grazie, eccomi qui, buongiorno a tutti. Allora, multe errate, sanzioni più severe per chi guida in stato di ebbrezza e chi supera i limiti di velocità, tempi di notifica ridotti a 90 giorni per quello che riguarda le multe, ma non solo. Ovviamente ti richiedo un punto sulle principali novità contenute nel nuovo codice, Maurizio, ma soprattutto quelle che ritieni, secondo la tua esperienza, che saranno davvero di maggior impatto e di maggior portata. Beh, sicuramente quella di maggior portata è l'alcol zero per i giovani e per i conducenti professionali, perché alcol zero vuol dire proprio non bere neanche una goccia, e sicuramente vorrà dire anche contenzioso nell'accertamento, perché già adesso l'etilometro è abbastanza contestato, nei prossimi mesi lo sarà ancora di più. Quindi innanzitutto questo. Poi c'è una novità abbastanza subdola, perché nessuno ne ha parlato, ossia bisognerà dare la precedenza anche al pedone che si accinga ad attraversare, nel senso che prima diciamo fino adesso si era data la precedenza al pedone in fase di attraversamento sulle strisce, e anche in questo caso c'è una novità, perché se sta attraversando sulle strisce bisogna comunque fermarsi, come se ci fosse il segnale di stop, mentre invece finora ci si doveva fermare solo se necessario. Ma la vera novità in questo settore è che bisogna dare la precedenza anche a chi si accinga ad attraversare, diventa un po' un processo alle intenzioni. Infatti, perché se vediamo una persona ferma sul ciglio della strada, ovviamente in concomitanza delle strisce pedonali, dobbiamo comunque fermarci nel dubbio che questo debba attraversare o meno? Di fatto per evitare problemi sì, anche perché la sanzione è abbastanza pesante a livello di punti, teniamo conto che vengono tolti 8 punti, cioè prima se ne perdevano 4 per infrazioni ai passaggi pedonali, adesso se ne tolgono addirittura 8, che è la seconda fascia di gravità, cioè la decurtazione massima è 10 punti per le infrazioni più gravi, subito dopo c'è questa. E poi no, l'altra cosa importante è l'inasprimento per chi fa inversione in autostrada o fa il contromano in autostrada, perché autostrade e strade extraurbane principali. perché c'è addirittura la revoca della patente. Prima si perdevano 10 punti, adesso è prevista la revoca della patente. No, questo effettivamente va... sì, no Maurizio, stavo riflettendo proprio sul fatto che queste due ultime novità che ci hai raccontato sono state davvero poco, pressoché nulla considerate dalla stampa, che invece come dire, si è focalizzata in questi ultimi giorni su tanti altri aspetti sicuramente molto importanti, tutti concentrati ovviamente a garantire la massima sicurezza sulle nostre strade, ma di queste due cose non avevo effettivamente sentito parlare neanche io. Vogliamo completare, Maurizio, anche l'elenco di tutte quelle categorie per le quali non sarà consentito nessun tipo di tolleranza per quello che riguarda il consumo di alcol? Abbiamo già ricordato i conducenti con meno di 21 anni, ma la rosa delle categorie non è terminata qua. Sì, sono i cosiddetti conducenti professionali, e per conducenti professionali intendo tutti quelli che guidano o taxi oppure autoveicoli in noleggio con conducente, sono praticamente quelle auto blu con l'autista che si affittano privatamente. Poi ci sono i conducenti, tutti i conducenti di autobus, tutti i conducenti di autotreni, di auto articolati che facciano servizio anche di linea, anche trasporto in linea. Tutte queste categorie qui si presume nell'esercizio delle loro funzioni, quindi non se utilizzano poi la loro vettura privata nel tempo libero. Dovrebbero essere fuori da questa stretta praticamente soltanto gli autisti di ambulanza, perché se interpreto bene la norma non si fa riferimento al loro certificato di abilitazione professionale. Volevo soffermarmi poi per un po' anche sulla questione dei tempi di notifica delle contravvenzioni. Abbiamo già ricordato come questi siano stati più che dimezzati, perché si passa dai 150 giorni attuali a 60 giorni come limite massimo, dopodiché no, la multa... No, sono 90, sono stati poi passati a 90. A 90, cioè, vabbè, quasi. Proprio perché la cosa era molto delicata, si rischiavano di perdere molte multe, diciamo, nelle more della notifica, e quindi poi alla fine si è trovato alla Camera un compromesso sui 90 giorni, che poi è lo stesso termine che vigeva fino al 1989. Me lo sono perso questo. E quindi, ma questo è stato per esempio un blitz delle ultime ore? No, è stato un blitz delle ultime ore alla Camera, quindi un paio di settimane fa, perché poi il Senato non ha toccato nulla, né poteva toccare alcunché, perché altrimenti sarebbe stato tutto rinviato a settembre. Quindi per è stato un accordo politico. Il periodo per ricevere la notifica delle multe passa da 150 a 90 giorni, non 60 come ho ricordato io prima erroneamente, ma avevo letto con interesse, a parte l'aspetto dei contravventori che hanno qualche difficoltà economica e che potranno rateizzare il pagamento, poi ricorderemo le condizioni. Ho letto che l'articolo 39 del nuovo codice prevede, riferendoci ancora agli autisti professionali, la possibilità per gli autotrasportatori di effettuare immediatamente nelle mani dell'agente accertatore il pagamento della sanzione, proprio per evitare di non incorrere nel fermo amministrativo del veicolo. Sì, infatti è una possibilità, diciamo, capestro, nel senso che avranno lo stesso, allora se commetteranno infrazioni gravi, quindi parliamo di infrazioni gravi sui limiti di velocità o sui divieti di sorpasso, oppure sulle infrazioni loro tipiche, quindi riposo, tempi di riposo, tempi di guida, queste cose qui specifiche per l'autotrasporto, praticamente il loro status è equiparato a quello dei conducenti stranieri, ossia dover pagare subito la sanzione, cosa che gli altri conducenti normali non devono fare, pagarla subito. Se non la pagano subito, devono pagare il doppio della sanzione minima a titolo di cauzione, perché poi magari intendono fare ricorso e quindi devono pagare il doppio per fare ricorso. Se non pagano subito né la multa né la cauzione, scatta il fermo amministrativo, perché con questo evidentemente lo Stato intende tutelare il suo credito nei confronti dell'autista e tra l'altro anche dell'azienda per cui l'autista lavora, perché molto spesso per questo tipo di infrazioni è prevista la solidarietà fra il dipendente e l'azienda. Tra l'altro bisognerà vedere se non sarà sollevata una questione di legittimità costituzionale. Sono proprio curioso, perché oggettivamente qualcuno ha storto il naso su questo, e nei prossimi mesi temo che ne vedremo delle belle. Infatti, perché ci sono tanti punti sui quali è stato storto il naso. Io mi riferisco anche, per esempio, all'aspetto sul quale ci siamo lungamente soffermati nella puntata di Salvadanaio dei giorni scorsi, sul tema del soccorso, tra virgolette, al cane ferito abbandonato in strada. Se non si interviene si rischiano pesanti sanzioni, e naturalmente qua, come dire, c'è sempre la voglia di polemizzare su tutto e non si capisce che in realtà tutto questo attiene anche proprio alla sicurezza complessiva delle nostre abitazioni, perché qualcuno dice, insomma, sempre a valutare gli animali di più delle persone. Ma su questo magari ritorniamo un'altra volta, perché già non abbiamo più tempo. Un'ultima cosa ti chiedo, perché ce l'ha sollevato un ascoltatore, Franco da Milano, poi ricordo, per chi volesse un quadro chiaro di tutte le novità, c'è uno specchietto molto ben costruito sul Sole 24 Ore di questa mattina, dove c'è anche appunto specificato che la notifica adesso passa a 90 giorni, non 60 come ho detto prima. Il nuovo codice della strada, chiedeva Franco da Milano, prevede che appunto le multe vengano notificate entro i 90 giorni, dicevamo, per i residenti in Italia. Per i residenti all'estero cambia qualcosa, Maurizio? Dunque, per i residenti all'estero non mi sembra, lì c'è sempre un anno, c'è sempre un anno, però al di là di tutto lì c'è un problema reale, che è quello di accordi fra stati. Da 15 anni si parla di una direttiva che faciliti le notifiche transfrontaliere, la verità è che questa direttiva non è mai stata approvata, e molti comuni addirittura rinunciano in partenza, anche laddove c'è un accordo con uno Stato per fare le notifiche, quindi accordi bilaterali, non comunitari. Il comune, proprio perché la cosa diventa complicata e l'incasso anche molto incerto, alla fine rinuncia. Quindi insomma è una questione che bisogna valutare caso per caso, a seconda dello stato in cui si abita, evidentemente, e alla quale si richiede appunto di notificare eventualmente la multa se si è commessa un'infrazione in Italia. Maurizio, grazie, buona giornata, vedremo che cosa succederà in questo fine settimana, speriamo nulla di serio, ma che soprattutto le nuove norme entrino rapidamente in vigore. Buona giornata. A presto, Alessandro. Eccoci, Deborah. Oh, se abbiamo sentito la chiusura. Ci ha messo del telefono subito prima. Così, Maurizio, ci ha lasciato immediatamente. Allora, oggi è Salvadanaio, facciamo un po' un punto della situazione. Su quanto costeranno quest'anno i libri di testo per chi andrà a scuola, ovviamente da settembre, perché qua non ci si capisce mai niente se i libri devono aumentare di prezzo o meno da un anno all'altro. Ci sono delle disposizioni del ministero, ma insomma, oggi ricercheremo di rifare un po' di chiarezza. E 8:32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, parliamo oggi nel nostro sondaggio di calcio e moviola. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Eccolo qui, io soy o blanco o negro, ci ha detto Maradona. E allora, il nostro bianco o nero di oggi è qui a parlare di calcio, di moviola, perché con la prossima stagione calcistica, e sappiamo che ieri proprio sono stati diramati i calendari della nuova stagione, la Rai ha preso una decisione che sta facendo discutere, vale a dire basta moviola in TV. Perché? Perché poi alimenta polemiche, ci vuole più spazio per il calcio giocato, per il calcio quello tecnico. Che ne pensate? Siete d'accordo? Radio24.it per votare. Io intanto voglio salutare gli ospiti, ne parliamo con il direttore di Rai Sport, Eugenio De Paoli. Direttore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Così come voglio salutare Franco Arturi, il vice direttore della Gazzetta dello Sport. Benvenuto Arturi. Grazie e buongiorno a tutti. E anche Paolo Liguori, direttore di TGCom, romanista. Eccoci, Liguori, buongiorno. Io romanista, ma tu Milan. E con Milan. Quel cognome che porti, siamo imbarazzati tutti. Te, no? Perché? Io è sono peggio di quello. Io ma che peggio? Io e nomen. Milan, io addirittura lo dichiari. Nomen della omen, sono orgoglioso. Esatto, orgoglioso. Che mi preoccupa. Milan e milanista fino al midollo. Allora, eccoci qua, Eugenio De Paoli. Intanto la decisione, ma come mai la Rai vuole, cos'è? Qualcuno ha detto una decisione demagogica, antistorica, via la moviola. No, io non credo che si tratti ovviamente né di demagogia né del fatto che sia antistorica, credo che sia un'esigenza, credo che si è arrivato il momento, ma già da parecchio tempo, insomma, di parlare più di calcio che di moviola. L'ispirazione mi viene da un articolo che fece tanto tempo fa Beniamino Placido, che criticando in maniera così sempre molto educata, con grande stile, programmi televisivi che si occupano di calcio, diceva appunto: perché non ci spiegate di più il calcio, perché non raccontate di più il calcio. La moviola, secondo me, non, è un mezzo che, come dicevi tu prima, alimenta solo e soprattutto polemiche, molto spesso anche sterili, perché poi quando tu vedi un'azione da 2, 3, 4, 5 punti diversi, alla fine ti rendi conto che sei al punto di partenza e non sempre la moviola è esaustiva. Ma io dico, cioè, voglio dire, se è insopportabile effettivamente quando si vedono 45 volte un'azione per vedere se era in fuorigioco perché il gomito era davanti oppure dietro, no? Per chi non conosce la regola del fuorigioco, vabbè, insomma, come la nostra Sara Spirafico che mi guarda già trabuzza gli occhi dall'altra parte del vetro. Vabbè, comunque, allora questo sì, no, però l'idea è soprattutto raccontare di più il calcio, ecco, adesso muoio a parte. Noi faremo uno sforzo per cercare di più il calcio e per raccontare di più il calcio, i bei gesti, per raccontare perché una squadra si gioca in una maniera piuttosto che in un'altra, insomma, entrare un po' nel dettaglio più tattico della partita, sperando di non essere noiosi, ovviamente, cercando di farlo in maniera divertente che sia accessibile a tutti. Certo. Tra l'altro devo dire, sul nostro sito gli ascoltatori sono spaccati esattamente a metà, il 49% dice per ora sì, è giusto, il 51% no, ma insomma metà e metà. Io vorrei, prima di andare da Franco Arturi, perché la Gazzetta dello Sport sulla moviola ha lanciato ieri una campagna su un altro tipo di moviola, cioè la moviola in campo, che è un altro grande tema, allora andare da Liguori. Eccoci qua, Liguori. Allora cos'è, una decisione antistorica? Neppure con una parola di quelle che ha detto Eugenio, che è un mio buon amico, ma non sono assolutamente d'accordo. Cioè, questo discorso, parliamo di calcio piuttosto che di moviola, mi sembra quella vecchia storia, separiamo i fatti dalle opinioni, dove però i fatti sono la moviola e le opinioni sono quelle dell'arbitro, che decide a prescindere da quello che hanno visto i telespettatori a casa. Allora, se non ci piacciono gli strumenti elettronici e vorremmo parlare soprattutto di calcio senza l'elettronica, non diamo tante partite in televisione, non facciamo mantenere il calcio dalla televisione. Ma siccome noi diamo tante partite in televisione, lavoriamo in televisione, la televisione fa campare il calcio, dobbiamo pur pensare che gli spettatori sono sostanzialmente telespettatori, e siccome i telespettatori sono alcuni milioni e vedono quello che si vede con l'elettronica, e quindi si vede il replay dell'azione in diretta e non si può impedire, perché questo fa parte della partita, che poi non si commenti nelle discussioni successive la moviola, mi sembra un'ipocrisia assoluta. Poi vi mettete a controcampo a litigare, era rigore, ma non era litigare rigore. O non litigare, questa è una cosa che dipende dalla sensibilità di chi è lì. Si può benissimo vedere la moviola senza litigare, poi questo sta al conduttore portare avanti una discussione di un certo tipo. Poi non mi sembra che il controcampo, per la sua storia, sia una trasmissione particolarmente litigiosa. Per anni e anni e anni la condotta Piccinini, che ha arrivato a discutere di moviola. Inoltre è antistorica questa decisione per un altro motivo, perché la moviola già si usa in campo, anche se nessuno lo ammette, ma in realtà si usa in maniera pure questa ipocrita e mascherata, per non contraddire le decisioni arbitrali. Se la dicono al microfono, quindi usano un altro sistema elettronico in cui il quarto uomo guarda la moviola, nei casi più gravi riferisce all'arbitro che cambia le decisioni. Che cambia le decisioni. Sentivo che De Paoli aveva qualcosa da ribattere. No, come si fa a dire che è antistorica? Cioè, loro sono, cioè, scusami Paolo, ma siete abituati a fare un tipo di programma che, per carità, ha un suo format rispettabilissimo e si basa proprio sul teatrino della moviola e ha dei risultati buoni, ovviamente. Non è un teatrino, Eugenio, la moviola è un teatrino, fatto che gli spettatori hanno già visto in televisione durante la partita, è il sale della discussione, non si può discutere. Ma quale sale della discussione, Paolo? Se non facendo rivedere le cose non può essere, e dandogli una prospettiva. Ma scusami Paolo, il sale della discussione non può essere sempre l'errore presunto, vero presunto dell'arbitro, no? No, ma ci sarà un sale della discussione? Mondiali, fammi parlare Paolo. Mondiali si sono Paolo, che sono stati campionati mondiali, si sono giocati attorno a due o tre errori dell'arbitro. Questo è vero, però questo è il concetto moviola in campo. Nessuno si sogna di ignorare gli errori dell'arbitro, per amor di Dio. Quello che si vuole evitare è che attorno all'errore di un arbitro si scappi scannino, sì, non esasperare, scanni studio. Allora, no, a questo proposito io vorrei, eccoci qua, Franco Arturi, abbiamo fatto ascoltare in modo che così, vedete, non è neanche iniziata la stagione calcistica, ma già sulla moviola ci si scontra, no? Ma questo è un tema annoso. Allora, Arturi, intanto un parere sulla moviola e la RAI, e poi un qualcosa che ha lanciato ieri la Gazzetta e che oggi prosegue, cioè la campagna non voluta da Blatter, non voluta dalla Federazione Europea, dire mettiamo la moviola in campo. Anche ai mondiali si sono visti, caso più clamoroso, il gol non dato all'Inghilterra di Fabio Capello, delle cose clamorose, fuori gioco clamoroso dell'Argentina in una partita. Allora, Arturi, che dobbiamo dire di questa moviola? Beh, intanto che sono due argomenti nettamente separati, cioè l'uso della moviola in senso giornalistico e di opinione pubblica e quello che se ne potrebbe fare per migliorare l'arbitraggio del calcio. Sul primo versante vorrei specificare che stiamo parlando di un'anomalia italiana, cioè siamo l'unico paese al mondo che ha una sottocultura calcistica tale per cui delle partite del calcio in senso stretto non si parla più, perché tutto è alluvionato, che se ne dica, da un ma guardi, era rigore o non era rigore? Cosa ne dice il coach di questa azione? Questa è la prima domanda si fa sempre. Allora, qui non è antistorico levare il piede dall'acceleratore, ma semmai il contrario. Ecco, far rientrare l'Italia giornalistico-calcistica in un'area, in un alveo internazionale, mondiale, è un fatto semplicemente positivo. Altro discorso è cosa possiamo fare per migliorare l'arbitraggio del calcio. È etico che di fronte ai telespettatori milioni di bambini chiedono ai genitori ma papà non è giusto, come si fa? È lecito rispondere non si può fare niente, ma come? Io ho visto che lì su quel versante qualche cosa si può fare, tenendo presente che il calcio è una meravigliosa e imperfetta invenzione. Ne faccio due o tre esempi. Il cosiddetto processo alle intenzioni è una mostruosità giuridica, questo è noto a tutti, eppure al giudice monocratico del calcio, cioè l'arbitro, il regolamento chiede espressamente questo, il processo alle intenzioni, per esempio nel falli di mano. Un altro esempio, è contrario alle leggi della fisica e dell'ottica poter stabilire, parlo dei guardaline, se un'azione è in fuorigioco o no, però si richiede esattamente questo. Ma non è, qualcuno dice, il bello del calcio, cioè, anche oggi Donadoni intervistato da voi dice io sono un po' un tradizionalista, è vero, che c'è bello anche Donadoni dice sono un tradizionalista, però la moviola per case eclatanti sì, la introdurrei, tipo se una palla è entrata di 2 metri, quella ai mondiali che hanno visto tutti, di un metro dentro, penso che affermare che il bello del calcio sia la sua parte brutta sia una contraddizione in termini. Il bello del calcio è un dribbling, è un gran tiro, non è una palla entrata dentro di 1 metro che non può essere giudicata quello che è un gol. Questo non è accettato da nessuno, né in campo, né in tribuna, né davanti, né sul divano davanti alla televisione. Quindi io non... Ma perché il mondo del calcio non lo vuole introdurre? Perché Blatter non lo vuole? È una questione di costi, è una questione di tradizioni, appunto, che non si vogliono cambiare. Perché mi rifaccio alla mia prima osservazione, perché per un'opinione pubblica inglese o spagnola o tedesca un mostruoso errore viene naturalmente recepito per quello che è uno scandalo sportivo, ma su quello si discute mezz'ora, tre quarti d'ora, cioè fa parte del gioco, lo accettano così. Da noi per l'opinione pubblica italiana è un elemento che sul quale si può scatenare una crociata e su cui ci si può svenare e non discutere, battagliare per mesi interi. Ma sì, ma non solo le prime domande agli allenatori, ma anche gli stessi allenatori spesso arrivano alle conferenze o alle domande subito dopo la partita e dice non ho visto però il gol, non ho ancora rivisto se quel gol è valido oppure no. Vabbè, ma questo è un po' italiano. Sentiamo allora qualche ascoltatore. 800 24 00 24. Francesco da Roma, buongiorno. Buongiorno. Romanista, buongiorno. Laziale? Ma io sono romanista ma non, come non il nostro Liguori. Non sono un tifoso acceso. Allora, vorrei dire due considerazioni, credo di buon senso. La prima, la moviola in campo, personalmente sono strafavorevole, perché così si eliminano gli errori, la buona fede, la cattiva fede dell'arbitro, eccetera eccetera. È inutile dire usiamo la tecnologia per il fuorigioco o per il gol, ma anche qualunque fallo può influenzare la partita. Vabbè, adesso cosa fa? Ogni due secondi ci si ferma, si vede ogni fallo. No, vabbè. Sono i capitani, come in America, che ci dà scuola di sport, laddove gli interessi sono molto più alti. C'è nel football americano, c'è la moviola, dove ci sono altri arbitri deputati e competono con l'arbitro. Il nostro tecnico alpino, Peter Bescapè, è anche gran giocatore di football americano, non è uno scherzo, annuisce. Va bene, e quindi lei lo vorrebbe. Esatto. La seconda cosa è praticamente affondare la RAI a livello di marketing, raccolta pubblicità, laddove non si potesse più fare uso di moviola, tutti i telespettatori, me compreso, forse anche voi compresi, migrerebbero verso Mediaset, Buongioco di Liguori, ecco. Sky. E questa è una cosa. E questa è un'accusa da quale voglio riparare, un'accusa che è stata lanciata anche. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? La moviola bandita dalla RAI Calcio, che ne pensate? Sentiamo anche Marco da Firenze, che ci ha chiamato all'800240024. Marco, che dice lei? Sì, buongiorno. Lei è viola, ovviamente, tifoso viola. No, io sono romanista. Ah, romanista, che tutti gli amici di Liguori hanno chiamato. Va bene, dica Marco, su. Allora, no, io non starei a scomodare troppo Beniamino Placido, che ha sollevato un problema assolutamente reale, ovvero sia la bassa qualità dei programmi sportivi, i quali però li fa il giornalista e li fa la struttura di riferimento. Ora, non mi sembra la soluzione togliere la moviola, perché non vedo per quale motivo il telespettatore non debba sapere che il gol era valido o non era valido, è stato la decisione dell'arbitro è stata sbagliata. Ecco, ma questo è un punto importante sul quale vorrei andare da Eugenio De Paoli. De Paoli, poi così replichiamo anche all'ascoltatore della questione concorrenza, ma una cosa non l'ho capita, cioè se un gol è in fuorigioco di 3 metri, lo direte, lo farete vedere alla moviola? Cioè, no alla moviola, cosa fate? Dite era fuori gioco di 3 metri ma non lo fate vedere, oppure sì? Cioè, non l'ho capito questo punto. Tutto. Cioè estrapoleremo ogni domenica quelli che sono i fatti più clamorosi della domenica, li facciamo vedere, li consegniamo a quella che noi abbiamo definito una sorta di corte di Cassazione che rivedrà l'azione, giudicherà in base al regolamento, che questa è una cosa molto importante, perché ci sarà anche, diciamo che la moviola assumerà anche una forma didattica per spiegare le regole del calcio, perché non dimenticate che di regole del calcio se ne conoscono molto poche, anche gli addetti ai lavori ne conoscono molto poche, arrivano sino a 10, ce ne sono altre che invece non si conoscono, quindi noi non è che ignoriamo, non facciamo vedere eccetera, noi faremo una cosa molto diversa, eviteremo semplicemente quella specie di teatrino che si crea in studio tra moviolista e contromoviolista, che, cioè, quindi se un gol in fuorigioco, se è un fuorigioco di 3 metri dite vedete è in fuorigioco di 3 metri, lo fate vedere, sì, punto. Questo, ma sai, fuorigioco di 3 metri è talmente evidente che non va neanche sottoposta una moviola, su un fallo dubbio, su un rigore dubbio, su un fuorigioco dubbio, quelli sì che sono elementi da moviola, e saranno quelli a essere sottoposti poi a un esame di che noi abbiamo così voluto enfatizzare chiamandola la Cassazione, che si riunisce ogni mercoledì, che poi è l'associazione degli arbitri. Entreremo nel tempio, perché l'accordo che stiamo cercando di concludere con gli arbitri e sul quale gli arbitri stanno ragionando è che si possa entrare da loro quando loro fanno vedere agli arbitri se, dove e come hanno sbagliato, e poi daremo la chiudiamo là sull'aspetto cosiddetto commerciale. Ma qualcuno veramente può pensare che io o la RAI voglia fare un favore alla concorrenza? Stiamo scherzando, cioè non è quello l'obiettivo, ma non dovrebbe neanche essere quello l'obiettivo in assoluto della RAI. Io dico una cosa, che se si vuole tentare di fare una cosa diversa, qualcuno l'ha chiamata una svolta culturale, solo la RAI la può fare come ente di Stato e come servizio pubblico, ed è giusto che sia la RAI a farla assumendosi tutti i rischi del caso. Vorrei dire soltanto una cosa, ringrazio Franco Arturi perché credo che abbia centrato esattamente il problema, e non so se avete letto un fondo di Gramellini sulla stampa di ieri che era secondo me da incorniciare, si riferiva proprio al valore educativo di queste trasmissioni nei confronti di ragazzi e di bambini che pensano che magari il calcio sia ridotto o riducibile semplicemente a un errore arbitrale o comunque all'operato di un arbitro. No, ma questo no. Questo lo trovo allucinante. Liguori, il fatto, allora, la concorrenza, voi non siete a gongolare un po' in qualche modo la concorrenza, e poi anche il suo parere sulla moviola in campo, insomma, a questo punto dovremmo metterla anche lì. La moviola in campo, insomma, toglierebbe qualsiasi punto. Abbiamo sentito adesso che la RAI la moviola la farà. Ne farà, la truccherà con una specie di pantomima giustizialista, la Corte di Cassazione, tutte, insomma, sciocchezze. Io sono, una volta che avete sentito anche le cose di stamattina, per la moviola in campo, per la moviola fuori, per la moviola a casa, per la moviola sugli iPhone, per la moviola sugli iPad, sui telefoni. Libertà, democrazia di moviola. Praticamente questa svolta della RAI è un po' spettacolare, un po' serve ad accattivarsi il settore arbitrale, ad prendere favori nel settore arbitrale. A me questa questione interessa poco, a me interessa il pubblico. Quando sento fare queste differenze sulla cultura e la sottocultura, da giornalisti sportivi il cui pane quotidiano da anni è, se vogliamo, tra virgolette, la sottocultura del calcio, io rabbrividisco. Allora posso rispondere con un appello paradossale: sottoculturati di tutta Italia, non abbiate paura, noi faremo la moviola, gli acculturati potranno vedersi la Corte di Cassazione organizzata col settore arbitrale. Come dobbiamo fare? Quando si comincia a dividere il bene dal male nello stesso tipo di meccanismo, quando si comincia a dire il terrorismo buono e il terrorismo cattivo, la cultura calcistica e la sottocultura calcistica, ci si rivolge a una classe dirigente immaginaria, non ci si rivolge alla gente con cui ho capito, ma Liguori, ma non c'è anche un tentativo, è una posizione ridicola, ipocrita, lo dico proprio esplicitamente, che quando viene sostenuta da giornalisti sportivi che hanno zuppato il loro biscottino nella sottocultura circa da 100 anni, l'unico paese che ha 3 quotidiani sportivi è l'Italia, non l'unico paese che non ha la moviola, ma l'unico paese che ha 3 quotidiani sportivi. Allora, parliamoci chiaro, stiamo prendendo in giro la gente. Vabbè, però è anche vero, Liguori, che è l'unico paese nel quale ci accapigliamo per un rigore, non rigore. No, è l'unico paese che ha 3 quotidiani ma sportivi. Sì, ma sarà vero anche questo. Che cosa c'è? Questo viviamo. E non ci accapigliamo noi per un rigore, si accapiglia tutto il mondo per un rigore. Si accapiglia Arturi, è così, cioè, insomma, Arturi, qua ci sono... Naturalmente no. Basta andare a frequentare uno stadio inglese o leggere un giornale dello stesso paese o un giornale tedesco per capire al volo, basta entrare in uno stadio qualunque al di là di Chiasso per capire al volo che i discorsi della cultura e della sottocultura sono molto importanti, che quello che dice Liguori è completamente falso e inesatto. Conta è come riferirsi alla cultura e alla sottocultura. Che ciascuno di noi abbia uno scheletrino o uno scheletrone nell'armadio non modifica affatto il discorso. Esiste un calcio buono e un calcio cattivo, certamente, come tutte le cose della vita. Un calcio dato da dietro a un avversario fa parte di un calcio cattivo che in linea teorica bisognerebbe stroncare. Un calcio fatto di mezze ore intere a discutere, giustamente dicevate, di 30 centimetri in un fuorigioco inapprezzabile da occhio umano, è un calcio perverso che esiste soltanto in Italia perché è un effetto di sottocultura sportiva di cui il nostro paese soffre e che tutti ci dovremmo sforzare, noi molto modestamente tentiamo di farlo per superare. Io penso che la decisione della RAI, anche la RAI ha qualche scheletro e scheletrino nell'armadio, vedi processi di varia natura, come li abbiamo noi, giornali, carta stampata, eccetera, eccetera. Però è una decisione apprezzabile? Cioè ma che certamente va, sì. Che va nell'orientamento di far risaltare il bello del calcio. Sentiamo ancora qualche ascoltatore. Matteo da Milano, buongiorno. Buongiorno. Lei almeno è milanista? No, assolutamente no, sono vabbè, dall'altra. Ecco, va davanti lo stesso. Come vede, l'accetto comunque. Vada, dica. Allora, premetto che non sono un appassionato di polemiche in generale nella vita. Ritengo la Movie On una cosa giusta per far capire cosa è successo, per valutare gli arbitri, per dare voti agli arbitri e per farne un ranking, e quindi i più bravi. Addirittura, cioè giudicare gli arbitri in base alla moviola. Ma non una cosa interna loro, un organo loro che anche tramite la moviola, perché se l'arbitro è in una posizione coperta da due giocatori non può vedere niente. Se l'arbitro non vede niente ed è un metro, ma ci sono le valutazioni che vengono fatte sul campo direttamente dai valutatori. Comunque, grazie Matteo, voglio andare a Pisa da Giuseppe, buongiorno. Sì, buongiorno. Nica. Io volevo spezzare una lancia poi della Rai, nel senso che trovo la decisione non solo giusta, ma sinceramente finalmente di buon senso, perché io tutte le altre trasmissioni, compresa quella dove partecipa Liguori, ho sempre visto sostanzialmente anche accapigliarsi se c'era un fallo laterale o se una punizione a metà campo c'era o non c'era, quindi si andava veramente a spezzettare la partita in maniera, secondo me, un po', quella sì, ridicola, diciamo, ecco. Cioè non le piace tutto questo cancan attorno? No, ma più che altro, insomma, mi sembra abbastanza anche irrilevante. Molte volte si facevano processi veramente alle intenzioni, cioè si fischiavano più falli da una parte o meno falli da un'altra parte, oppure se il fallo laterale non c'era, il calcio d'angolo c'era o non c'era. Insomma, questo non le piace. Lei spezza una lancia per la decisione della Rai. Siccome sono in chiusura, ce la faccio anche Gabriele, dalla provincia di Alessandria. Buongiorno. Buongiorno. Dica, Gabriele, rapidamente. Sì, senta, io semplicemente volevo ricondurre al discorso che faceva Arturi sul discorso culturale della... Sì. Che fondamentalmente era contro la moviola in campo. Io invece volevo contraddirlo, cioè evidenziando anche l'aspetto economico. Come contro la moviola in campo? Arturi è a favore della moviola in campo. La Gazzetta, sta facendo una campagna per mettere la moviola in campo. Ah no, mi scusi, ho sbagliato. L'ospite parlava di un discorso più culturale che... Sì, e che vuol dire lei? Dica la sua sulla moviola. Io volevo insomma evidenziare l'aspetto economico del calcio di oggi, per cui è vero sì fare un discorso sportivo, il discorso di valori, principi eccetera, però non ci dimentichiamo che la Francia quest'anno ai mondiali si è qualificata a scapito dell'Irlanda con diciamo, una qualificazione assolutamente ragione, forse anche questo la Gazzetta dice, ci sono anche interessi economici, appunto, quindi ci vuole la moviola, insomma, da decisioni importanti si decidono anche questioni economiche non irrilevanti, anche questo è un aspetto del calcio. Gabriele, però io mi devo fermare con lei, ringrazio Paolo Liguori, Eugenio De Paoli e Franco Arturi per essere stati con noi. Votate su Radio24.it sempre per ora a 52%, siamo saliti un po' a favore della decisione della Rai di bandire la moviola, 48 no. Grazie a tutti, a domani.